Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi parliamo di mercato, che spesso è fumo, molto spesso, ma ogni tanto diventa arrosto e magari anche prima del previsto. Sentite il presidente del Genoa, Preziosi. Sì, abbiamo fatto questa colazione, ci siamo privati di due pedine, abbiamo raggiunto un accordo per quanto riguarda la valutazione di Milito e Thiago Motta, e quindi con delle contropartite che noi riteniamo importanti e con anche del cash che riteniamo altrettanto importante. Per cui io sono molto soddisfatto. Quando si stringe la mano tra due presidenti si presuppone che ci sia rispetto poi degli accordi, poi soprattutto quando si parla con un presidente come Moratti, per cui le contropartite non le dico. Dico solamente acqua fresca, tanto perché ormai è girato troppo, per il resto no, preferisco non parlarne. Fin qui Preziosi, vi dicevo dunque che il fumo che ogni tanto si agita, insomma si leva dal calciomercato o cosiddetto tale, ogni tanto diventa arrosto e lo diventa anche prima del previsto. Siamo collegati con il Corriere dello Sport e con Alberto Polverosi. Buongiorno Alberto. Ciao, buongiorno. Senti, sono partite presto quest'anno, molto per tempo, sia l'Inter che il Genoa. Sì, sono partite prima del tempo. Se vuoi. Prima del tempo. Ma prima del tempo, ecco, eliminiamo subito questo aspetto. Prima del tempo vuol dire la trattativa è lecita anche in questi momenti, sì? Sì, beh, certo. Mm. È una cosa. Allora, fra il lecito e il possibile, sai bene, nel calcio il confine è labile. È molto labile. Anzi, fra il possibile e l'impossibile è ancora più labile. Certo. Per cui questa trattativa col Genoa è iniziata un paio di mesi fa. Sì. E c'è stato poi un inserimento importante che è stato quello di Thiago Motta. Credo che l'Inter abbia preso due grandi giocatori, soprattutto due giocatori che servono a questa squadra. Mm-hmm. moltissimo perché l'Inter in attacco aveva come cannoniere, come goleador, aveva solo Ibrahimovic. Certo. E non fidandosi più di un giocatore, e sbagliando secondo me, non fidandosi più di un giocatore come Crespo. E a centrocampo ha ragione Mourinho, perché una volta che lui è tornato sul giocare con il rombo di Mancini, aveva solo quattro giocatori. Mm-hmm. Perché Vieira purtroppo ha di nuovo, come dire, ha fallito la stagione per una serie di infortuni, per cui Thiago Motta credo che sia il giocatore preciso per quel tipo di gioco. Certamente sì. C'è l'Inter al centro di queste, no? di queste giornate, anche per questa voce che d'altra parte oggi rimbalza su tutti i quotidiani, a cui voi avete dato particolare enfasi, già respingendo la mittente in un certo senso, però vorrei che tu ce la dettagliassi meglio, e cioè è questo interessamento del nuovo Real di Florentino Perez per Mourinho, pare con un'offerta ben precisa, e il no di Moratti, anche se mi pare che il contratto di Mourinho preveda una clausola di rescissione in qualunque momento. Sì. Tanto per cominciare la prima parte della tua domanda, l'Inter non è adesso, è sempre in mezzo alle questioni di mercato, sempre, da quando credo sia nato il calciomercato, dai tempi, sì, del papà di Massimo Moratti, l'Inter ha sempre avuto un ruolo meritato di protagonista. Mm. E per venire alla questione di Mourinho, la trattativa, diciamo, l'idea di Perez non è di ieri, chiaramente. È un'idea che è nata dopo una serie di discussioni, di giri di orientamento. Allora, l'allenatore che Florentino Perez voleva al Real Madrid era Ancelotti. Sì. Su questo non ci sono, credo, almeno io non ho dubbi. Sì. Perché Ancelotti era innanzitutto già stato contattato all'epoca da Florentino, è un allenatore che piace al, al calcio spagnolo, perché se vedi bene il Milan ha qualcosa, se non tanto, del modo di giocare degli spagnoli. Sì, sì. Ha la qualità sicuramente prima della fisicità, ha la brillantezza prima della solidità, per cui Ancelotti rientrava bene in questi identikit. Solo che Ancelotti, quando ha capito a febbraio, fine febbraio inizio marzo, quando ha capito che col Milan sarebbe stato difficile andare avanti, alla prima offerta buona, che è una grande offerta, intendiamoci, ha detto di sì, era quella l'offerta di Abramovic. E adesso Ancelotti vorrebbe restare al Milan, ma dicendo no a Abramovic, ma può dire no ad Abramovic ancora solo se resta al Milan, non certo per andare al Real Madrid, perché sarebbe una cosa francamente un po' particolare, fregherebbe due squadre come Milan e Chelsea nello stesso tempo, e certo, non andrebbe bene. Allora, restiamo su questa mappa allenatori. Arrivavo un attimo a Mourinho. Ah, scusami, certo. Così, ecco. Era lì che... Perfetto. Allora, Mourinho era dietro a Ancelotti e dietro a Wenger, perché Wenger alla stessa maniera con l'Arsenal risponde a questi identici di allenatori che fa giocare le squadre bene. Se Perez non riesce ad arrivare a Kakà, cosa ancora da vedere, se non riesce ad arrivare a Cristiano Ronaldo, ha comunque bisogno di un grande nome da mettere in piazza, come fanno sempre in Spagna, Barcellona e Real Madrid. E questo è Mourinho. Mourinho ieri ha avvisato Moratti, Branca e Oriali dicendo loro che Perez lo ha cercato. E lì come finirà, francamente, per ora lui ha detto a Moratti che, come poi Moratti stesso ha confermato, che resta all'Inter, ma con una squadra molto più forte di quella attuale, con lui al centro del progetto e con la conferma di Ibrahimovic. Io non so se tutte queste cose potranno avverarsi. La prima di sicuro si sta già avverando, perché l'Inter ha preso tre giocatori, due forti e uno in prospettiva molto forte, che è Arnautovic. Sì. Accontenterà Mourinho per quanto riguarda il centrale, che potrebbe essere Carvalho, Pupillo. E poi magari lo accontenterà ulteriormente, come ha fatto per Quaresma l'anno scorso, con un esborso direi assurdo, sproporzionato al valore, al di là dello che poi è fallito completamente, lo accontenterà anche probabilmente con Deco, quindi riunirà un po' della sua corte, una corte di ottimi giocatori, sia ben chiaro. Sì, sì, certo, comunque di fedelissimi a Milano. Quindi questo è lo scenario possibile all'Inter. Tu dicevi però che questo dovrebbe essere il finale, senza poter escludere quell'altro finale, cioè se per caso, a parer tuo, Florentino, visto che stiamo divagando e dilettandoci per una volta, se Florentino Perez dovesse provare a piazzare il ticket Mourinho-Ibrahimovic, secondo te come reagirebbero i due? Guarda Gigi, io non sono un esperto di mercato, ecco, non vorrei far non vorrei che agli ascoltatori pensassero, io non lo sono, proprio non lo sono. Però per questa esperienza di Inter di questi anni, io vedo l'Inter come una società dove tutto è possibile, tutto, sempre tutto. Cioè tu pensi l'Inter questo non lo può fare e invece lo fa, sia nel male che nel bene, sia ben chiaro, ecco. Per cui io non vedo la parola, per questo non vedo la parola fine alla vicenda Mourinho. Magari ce lo dirà lui stasera, visto che fa l'intervista a Sky, e metterà lui la parola fine. Però in questo momento, in queste ore, è ancora tutto in piedi. Io non so come potrebbe prenderla Moratti, di sicuro, come potrebbe prenderla me lo immagino. Sì. Non benissimo. Prendo un allenatore e gli do 9 milioni e mezzo di ingaggio, nessun allenatore al mondo guadagna quanto lui, del resto nemmeno nessun giocatore guadagna quanto Ibrahimovic. Questo allenatore ha fatto una stagione buona, perché al primo anno ha vinto subito lo scudetto, ma per me, vista da me Moratti, è una stagione normale, perché sono tre anni che vi sto vincendo lo scudetto, quindi l'ho preso per migliorare, non per vincere, ma per migliorare lo spessore e il livello internazionale della squadra, e la squadra ha fallito la Champions in quella maniera. E poi dopo a fine campionato, a giugno ormai, questo dice mi saluta e va a Real Madrid, beh, francamente io molto soddisfatto non sarei. Non potrei essere. Non potrei essere, proprio nella maniera più assoluta. Tanto più se insieme a Mourinho, perché un allenatore bravo comunque si trova, se insieme a Mourinho parte anche Ibrahimovic e va alla stessa società di Mourinho, dopo quello che sta facendo Mourinho con Ibrahimovic, non dimentichiamoci l'ultima cosa con Balotelli, quando Mourinho si è schierato totalmente dalla parte di Ibrahimovic, certo. Cui insomma francamente non sarei davvero per niente soddisfatto, però le risorse di Moratti sono infinite, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista inventivo, se si può dire così, e qui non ci sarebbe da meravigliarsi un finale così con l'Inter data in mano ad un altro allenatore. Io certo, non mi meraviglierei, ecco. Non ti meraviglierei. Dunque, tra poco i vostri interventi in diretta, come sempre all'800 24 00 24. Ti domando ancora, Alberto, come riusciamo a mettere una mappa delle panchine principali per la prossima stagione? Nel senso che, allora, in dettaglio, Ancelotti è andato e chi a parer tuo potrebbe succedergli al Milan? Ferrara potrebbe restare alla Juventus o invece è davvero solo una transizione di due giornate? Mi pare che Roma, sponda giallorossa, si liberi o si sia già liberata. Anche sponda biancoceleste. E anche sponda biancoceleste. Leggo per esempio che Mazzarri andrà a fare un'esperienza all'estero e alla Sampdoria andrà Del Neri. Insomma, ne cambiano tante quest'anno. Guarda, facciamo un conto. Uno di questi giorni, in cui per il momento le panchine certe sono di Serie A, sono 5, se non mi sbaglio. Quindi io credo come in questo momento un'effervescenza così non si era mai vista. Anche non ha precedenti, è vero. Perché da ieri, sono 4, perché da ieri, me l'ho dimenticato, entra in ballo anche quella dell'Inter. Soprattutto sono le prime 4 panchine più importante se si esclude la Fiorentina, che non, sì, che non sai bene che non sarebbe giusto escluderla fra le grandi, anzi. No, anzi, è una delle quattro, è la principale delle quattro confermate. Insomma. Esatto, è la principale, bravo, l'hai messo bene, è la principale, la migliore delle quattro confermate. E la Juventus, io non so come farà la Juventus, a me sembra veramente una schizofrenica questa cosa ha fatto la Juve, perché se non c'era fiducia di Ranieri, su Ranieri, non può essere a due giornate dalla fine, non può essere con quello che loro hanno detto, con Bolle Gigli e Blanco hanno detto in questi mesi. No, la fiducia di Ranieri è venuta meno non d'improvviso, non può essere, ma di sicuro è crollata dopo l'eliminazione della Coppa Italia, ma è venuta meno dopo l'eliminazione col Chelsea, perché da quel periodo la squadra lo ha mollato inconsciamente, sia ben chiaro, però la squadra ha preso a viaggiare per conto suo, senza più stare in linea col pensiero dell'allenatore. Ma una società sveglia se ne accorge subito e allora lo licenzia subito se va licenziato. A due giornate dalla fine che può succedere? Le due partite che vince Ferrara le può vincere anche Ranieri alla stessa maniera. E come farà la Juventus a giudicare il lavoro di Ferrara in due partite? Cioè io che sono delle cose, no, francamente, se le facesse, che ne so, Zamparoschi. Esatto. Tu dici la società X, dice vabbè, ok, sono in balia alla disperazione, ma noi abbiamo sempre in testa la Juventus, quella prima della triade, ma anche quella della triade, una cosa così non può succedere. No. A Roma è una situazione diversa, perché a Roma si è sfilacciato il rapporto fra Spalletti e la proprietà ormai da tempo. La Roma ha vissuto una stagione pazzesca con gli infortuni di Totti, di De Rossi, troppi giocatori sono saltati e sicuramente poi c'è il problema della proprietà, quindi è una situazione difficile da inquadrare. Sì. Quella del Milan per me è quella più chiara, nella mancanza totale di chiarezza è la più chiara, se io sono convinto che se il Milan avesse vinto a Udine e si fosse qualificato per la Champions League, Galliani avrebbe telefonato a Berlusconi e gli avrebbe detto guarda, dobbiamo trovare il sistema di tenere Ancelotti, perché Galliani ha ragione a sostenere, a pensare che il miglior allenatore per questa squadra sia Ancelotti. Io non credo che il Milan farà grandi cose sul mercato. Forse prenderà De Bayor, forse ha già preso Thiago Silva, ma non sarà un Milan rivoluzionato come dovrebbe esserlo, sì, rinforzato come sta facendo l'Inter adesso, che ha vinto il campionato, che ha appena vinto il campionato. Per cui non c'è un allenatore, secondo Galliani, io sono d'accordo, che possa rendere, far rendere la squadra più di quanto l'ha fatta rendere Ancelotti. Ma Berlusconi non so se è di questo avviso, anzi mi sembra proprio il contrario. In privato perlomeno certamente no, poi in pubblico si vedrà. Sai che ti dico, Alberto, non perdiamoci di vista, ogni tanto, se non ti disturbiamo troppo, facciamo un po' il punto della situazione come abbiamo fatto oggi. Che ne dici? Problemi. Sì, sperando che da qui a 15 giorni qualcosa si chiarisca, perché sennò anche noi, certo. Io che poi, non ti ripeto, mi perdo in queste cose, cioè non è che ho una mente mercatizia, diciamo così. Un po' mi piace volta. Molto di più il pallone del mercato, però io capisco perfettamente, sia ben chiari i lettori, gli ascoltatori, che di tanto in tanto almeno insomma, hanno bisogno queste di queste iniezioni di novità. Grazie ad Alberto Polverosi. Come vedete si balla tra dati di fatto e illazioni, perché Milito e Thiago Motta all'Inter sono un dato di fatto, e l'avete sentito annunciato dallo stesso presidente del Genoa, è una trattativa di quelle robuste, cioè mi sembra che sposti e come, nel senso che arricchisce l'Inter e impoverisce il Genoa, che però si arricchisce non solo di quattrini ma anche di giovani talenti, a cominciare Acqua Fresca. Poi, come mi fa notare un ascoltatore per iscritto, non si capisce perché Acqua Fresca debba andare al Parma, però vabbè, questo poi si vedrà. Ma anche Floccari nel frattempo è praticamente arrivato al Genoa, cioè qualche trattativa robusta che riguarda le grandi squadre si è già conclusa. Se non dimentichiamo Diego e Cannavaro alla Juventus, cioè, e tutto questo quando mancano ancora due giornate alla fine del campionato. Il risico delle panchine ovviamente è molto più aleatorio al momento, ma qualcosa succederà. E quella di Ibrahimovic, quella di Mourinho, domando scusa, al Real, che qualcuno interpreta come una bufala o come un modo per enfatizzare, per come sempre fare rumore, vendere giornali o fare audience, invece è una proposta reale che Mourinho ha ricevuto, tant'è vero che è stato lui stesso a parlarne ieri in società, e mi pare che Alberto Polverosi ce l'abbia raccontato proprio per come è andata. Dopodiché ci sono le vostre reazioni, vi leggo alcune delle prime. Claudio da Monza dice: se Moratti dicesse no, via Ibra e via Mu, e si riprendesse Mancini, potrebbe essere un'ipotesi. Mourinho, se vuole, può andarsene al Real, scrive un altro ascoltatore, non vedo l'ora che arrivi Zenga. Un altro la pensa alla stessa maniera. Massimo da Lecco dice: io voto per Zenga subito a Milano, se ne vadano pure Ibrahimovic e Mourinho. E poi altri, sto cercando di dragarli mentre nel frattempo voi cominciate a intervenire. Antonio Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. No, volevo intervenire sul discorso Milan e allenatore Milan. Sì. È la luce del sole il fatto che ormai il Milan, cioè il ciclo del Milan, è finito probabilmente da 2 anni e nessuno della società se n'è voluto accorgere. Secondo me la via d'uscita sono due: o si rivoluziona la squadra in modo da permettere ad Ancelotti di ridisegnare una squadra con un modulo diverso, perché il centrocampo con Pirlo, Seedorf, i soliti noti, comunque ormai è una cosa scontata che tutti conoscono, che non ha niente di nuovo, non può dare niente di più, o altrimenti, visto che appunto non ci sono soldi per poter ricostruire, rifondare una squadra, bisogna optare per il cambio di allenatore. Quindi io condivido il fatto di a questo punto dover cambiare allenatore. La cosa che mi chiedo è perché nei vari nomi che si fanno è scomparso totalmente il nome di Rijkaard, che penso che sia probabilmente il più adatto, perché ha esperienza internazionale, ha già vinto, conosce l'ambiente, e però è scomparso dai nomi papabili per essere il nuovo allenatore del Milan. È scomparso dai radar, probabilmente perché una volta che cambiare per cambiare, credo che la passione di Berlusconi sia Van Basten, indipendentemente dal rendimento che Van Basten e Rijkaard hanno avuto nelle loro prime annate, nei loro primi esperimenti, insomma, di panchina. Giovanni da Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie che mi fa intervenire. No, io volevo dirle solo, ecco, che pure il problema, cioè, come dice lei, che tanti giornali scrivono per vendere più tirature possibili. Questa cosa da una parte è negativa nel mondo sportivo, perché nel senso che prendiamo il caso del Milan, ecco, Ancelotti ormai è al vivissimo, però per me, ecco, anche se va a Chelsea o prendere un'esperienza estera, alla fine farebbe bene, anche perché qui bisogna rivalutare i nostri allenatori. Certo, ecco, Mourinho il prossimo anno sarà l'ultimo anno, cioè, che la società pure punta, perché quest'anno ha vinto lo scudetto, però le faccio presente che a febbraio in Champions stavano traballando come società, e lo scudetto ha ripiegato tutto. Il prossimo anno l'Inter inevitabilmente, se Ibrahimovic resta, deve puntare a fare grandi numeri in Europa, cosa che non vedo nella Juve, che ha cambiato proprio una dirigenza, uno stile. Sì, comunque dell'Inter sto discorso si faceva già quest'anno, per la verità. Ci terrei solo a far notare che il presupposto da cui siamo partiti oggi è questo, e voi mi darete atto che in genere di mercato, di voci e di inseguimento di questo genere di cose non... No, in genere ce lo risparmiamo. Oggi va diversamente, perché? Perché ieri a due giornate, ripeto, alla fine del campionato, è andato in porto un grande affare. Sia per chi acquista, a parer mio soprattutto, che per chi vende comunque. E dato che i protagonisti sono la squadra che ha appena vinto il campionato e la squadra rivelazione vera della stagione, cioè il Genoa, mi sembrava che fosse una notizia, che ripeto, ci fosse per una volta dell'arrosto rispetto al fumo, aggiungendoci poi Cannavaro ed Eco, che sono già andati alla Juventus, e sullo sfondo altre trattative concrete, che mi sembrano più concrete rispetto a periodi passati, quando ricomincerà la sensazione che sia il fumo a fare da protagonista e l'arrosto sia poco, molleremo al volo questi argomenti. Domenico, Reggio Calabria, buondì. Buongiorno, senta, io volevo parlare di Mourinho e di Ibrahimovic. Sì. Che l'Inter può fare a meno di tutti e due, e la fa più forte la squadra. E penso che vince pure senza allenatore il campionato. Per la Coppa dei Campioni, se vediamo Chelsea, Manchester non la vince mai, perché doveva andare in Barcellona in finale. Arrivederla, vi ascolto per radio. Arrivederci a lei, Domenico. Grazie. Possiamo sentire qualche altro contributo vocale prima dell'intervallo di metà trasmissione. Per esempio, una battuta di Cassano su Mourinho. Adesso tutti quanti dicono Mourinho è una brava persona. Nessuno mai va a dire il contrario. Allora, io ho sempre detto che per me Mourinho, Capello e Ferguson sono i tre migliori allenatori del mondo e negli ultimi 10 anni, perché hanno vinto tantissimo dove sono andati. In assoluto, però Mourinho è più personaggio sia di Ferguson che di Capello, perché gli piace stare al centro dell'attenzione, gli piace fare il personaggio come me. Come lui, a grandi linee. Cioè, è interessante questa nuova cote intellettuale di Cassano. Franco da Varese, buongiorno. Buongiorno dottor Garattini, complimenti per la trasmissione. Niente, io dico una cosa, io sono un interista ormai di vecchia data. Ma questi mercenari, perché io li chiamo così, sono mercenari, questa gente che va dove ci sono i quattrini, esclusivamente dove si guadagna di più e basta. Cioè all'Inter intende lei, no? Cioè, perché come all'Inter non li paga nessuno. All'Inter non li paga, non li paghiamo, nessuno li paga. Come ecco, perché lei ha sentito che sia Ibrahimovic che Mourinho sono due record mondiali, no? di retribuzione. Questo lo si sa, no? Perché poi il signor nostro caro benefattore Moracchi, io lo chiamo così, no? Cioè io credo fosse stato suo padre, queste cose non sarebbero successe. Poi sa, alla fine... Guardi Franco, che anche il subabbo non andava leggero nei cosiddetti emolumenti, eh? Poi è vero, sì, è chiaro. Mm. Sì, però insomma, a un certo punto io, come i vari Vieri che sono stati, non sono più attaccati alla maglia, cioè io sono ancora un nostalgico, capisce? Per cui vedo ancora il Zanetti attaccato alla maglia, il Maldini attaccato alla maglia, io rispetto anche le squadre, le altre società, no? Capisce? Per cui per me questi sono mercenari. Sono professionisti con qualche tentazione in più rispetto al professionismo, magari, che ogni tanto è rispettato fino in fondo e ogni tanto no, ma oggi questo è diventato il calcio, sicché io trovo quando Gigi Cagni ci ha fatto notare già in un paio di circostanze, no? Quello che lui coglie, lui trova molto più sorprendente il fatto che dopo un gol questi calciatori di oggi vadano sotto la curva a toccarsi il cuore e a mettere in evidenza la maglia. Trova molto più sorprendente questo che non le cose di cui stiamo parlando oggi, perché in effetti così mi pare che sia. Prove libere a Monte Carlo, Barrichello, miglior tempo nella prima sessione, con circa quasi mezzo secondo, no, un po' meno di mezzo secondo su Felipe Massa, che è secondo, e subito a ruota Hamilton, quindi ritornano perlomeno in queste primissime prove libere. Però chiedo alla regia, sì, è pronto il campanellino? Vai col campanello. Voci dal giro. Corso la cronometro delle Cinque Terre, per tappa probabilmente decisiva, come ho letto da qualche parte stamattina, forse non per decidere chi vincerà il giro, ma quasi certamente per chi non lo potrà più vincere. Percorso atipico, 62 km, niente meno. Sentiamo da Pier Augusto Stagi, dopo questa che è in corso, quali saranno le tappe che potranno ancora decidere la corsa. La corona delle Cinque Terre sarà un grande spartiacque, per molti oggi il giro finirà e per altri invece incomincerà esattamente oggi. Poi un punto importante sarà anche la 14ª tappa, dopodomani, con la Campi di Bisenzio, Bologna, San Luca, una tappa nervosa con una riva in salita che potrebbe già dare un'altra mano a quei corridori che devono recuperare. Ostica la tappa Forlì-Faenza, molto nervosa, forse sottovalutata, ma diventerà difficile proprio anche il fatto perché è alla vigilia della Pergola-Montepetrano, che è il tappone di questo Giro d'Italia. Non ci sono le Dolomiti, ci saranno però 5.000 e passa metri di dislivello in questa 16ª tappa, che a tutti gli effetti sarà forse l'ultima chiamata per gli uomini non avvezzi al cronometro, che devono recuperare e devono puntare alla maglia rosa, ad esempio come Ivan Basso. Danilo sta attraversando un grande momento di condizione, a livello psicologico forse è quello che sta meglio di tutti, perché comunque avere la maglia rosa e partire per ultimo è un grandissimo vantaggio. E poi proprio anche la crono che gli si addice, perché è una cronometro ricca di salita, discese tortuose, ci sono quasi 200 curve da affrontare con grande tecnica. È una cronometro non per cronomen puri, ma per gente che sa andare in salita e soprattutto sa andare in discesa. E quindi io credo che oggi Danilo possa perdere poco rispetto ai cronomen come Leipheimer, come Menchov, come lo stesso Carlos Sastre. Voci dal giro in collaborazione con. Il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere Transit Van Turbo Diesel Common Rail a 10.500 euro. Torniamo in onda. Ci sono molti. Cioè, siete molti di voi già collegati. Devo soltanto aggiungere al padre di giro che si è ritirato Cancellara. Fabio Cancellara non è partito per questa cronometro. Roberto in linea da Roma, buondì. Buongiorno, dottor De Ranzini. Dica. Volevo chiedere, secondo lei, un giudizio, io si chiamo da Roma, sono tifoso della Lazio, un giudizio sull'operato di Delio Rossi, l'allenatore, se giusto come si dice che probabilmente lo Tito vorrà cambiare allenatore, se secondo lei appunto dovrebbe fare questa scelta lo Tito oppure dovrebbe ancora puntare su Delio Rossi, eventualmente secondo lei che potrebbero essere gli allenatori plausibili per sulla panchina della Lazio, visto anche che lo Tito è un personaggio un pochettino difficile da questo, insomma, da andare d'accordo. Prima di trovarne uno, io non so chi sarà, non ne ho la minima idea. Prima di trovarne uno bravo e adattabile, ma senza rinunciare a nessuna delle sue prerogative, alla sua personalità, prima di trovarne uno come Delio Rossi, in altre parole, secondo me si farà non poca fatica. E non lo dico soltanto perché ha vinto la Coppa Italia, ma perché ha fatto cose eccellenti, secondo me, alla Lazio di questi anni. Daniele da Venezia scrive: Rijkaard è scomparso, lo ricordava un ascoltatore prima, perché crede in Ronaldinho ancora meno di Ancelotti, ma certo, perché l'ha avuto più anni e quindi ha avuto modo di testare e di capire. E quindi, appunto, questa è la ragione, è una bella riflessione quella di questo ascoltatore. Ecco perché Rijkaard è sparito un po' dai radar e hanno ripreso invece quota e si è lanciato il nome di Van Basten. Visto che per un lapsus lei ha detto Deco al posto di Diego, le chiedo che fine ha fatto Deco, domanda Giacomo. Credo che non stia giocando nel Chelsea, molto semplicemente, un po', molto per infortuni e un po' perché ha fatto fatica a ritrovare la condizione. Un altro ascoltatore, anche qui a proposito di un intervento precedente, dice: ma sono mercenari solo quando vanno via dall'Inter, e quando invece all'Inter arrivano non sono mercenari, quindi perché sono mercenari Ibrahimovic e questi eventualmente, e non lo sono Thiago Motta e Milito? In effetti non lo sono, è un modo sbagliato di porgere, ma è chiaro che quando riguarda la tua squadra allora scatta, no? Scatta il termine più duro, più cattivo, perché non è il caso di speccare del fiato. Giuseppe, provincia di Messina, buongiorno. Buongiorno Garantini, mm-hmm. È un piacere di parlare con lei. Una considerazione velocissima e una domanda. La considerazione riguarda le sono di Ranieri, che aiuta il tifoso juventino e definisco una pagliacciata bella e buona. Mm-hmm. La domanda più seria è questa qua. Non crede che adesso sia giunta l'ora in Serie A di fare anche il play-out tra la terza e la quarta ultima della classifica per decidere la terza squadra appunto che deve scendere in Serie B, visto che a fine campionato qualche partita strana ancora esiste tutt'oggi? La ringrazio, l'ascolto per lei. Grazie a lei. No, io non sarò mai d'accordo e basta. Cioè, le partite strane ogni tanto c'è una partita strana, molto più spesso ci sono partite che basta che non vadano secondo pronostico codificato, dimenticando che a fine stagione proprio motivazioni assai più che di altro, e subito vengono definite strane. Per me i campionati sono delle grandi corse a tappe, e nelle grandi corse a tappe la maglia rosa alla fine o la maglia non nera, se parliamo di retrocessione, veramente chi ha vinto più tappe, e non chi ha vinto più tappe ma chi ha percorso tutta quella strada nel minor tempo complessivo, in questo caso chi ha fatto più punti durante tutto l'arco della stagione. I campionati si premiano così, secondo me. Poi ci sono le coppe, che sono dei play-off, dei play-out ininterrotti, no? Che sono la doppia sfida. E se mai toglierei la fase a gironi delle coppe, se proprio vogliamo parlare di riforma ad ogni costo. Vittorio, provincia d'Ascoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, era una domanda. Grazie, altro della chiamata. Senta, se il grandissimo Mourinho avesse avuto la rosa della Juventus, sarebbe riuscito a vincere lo scudetto? Chi glielo può dire, Vittorio? Se secondo lei è una domanda a cui qualcuno può seriamente rispondere? Se si fa per fare i cazzari, cioè, possiamo andare avanti, no? Cioè, io personalmente rispondo di no, però che attendibilità ho io? O sì. Che le pare? Sì, se la mettiamo sui discorsi per assurdo. Però voglio dire, con quella cosa che si ritrova, ha vinto poco, perché doveva vincere qualcosa di più. Vabbè, ma questo non vuol dire che avrebbe fatto più o meno di Ranieri da un'altra parte, non abbiamo la minima idea, non sappiamo nemmeno se avesse le ruote la sua nonnina, no? E quindi insomma, mi pare che non sia proprio il genere di esercitazione più... preferisco rifugiarmi in un paio di libri da segnalarvi, perché mi erano sfuggiti la settimana scorsa del collegamento alla Fiera del Libro di Torino, anche perché non era stato semplice, qualcuno lo ricorderà, riuscire a introdurre quel fenomeno assoluto che è Corona all'interno dello studio, e allora mi era scappato il tempo per citare due buone letture. Una è molto recente, si chiama La Corsa del Secolo, è un Oscar Mondadori, l'hanno scritto Paolo Colombo e Gioacchino Lanotte, sono 100 anni di storia italiana attraverso il giro, ma 100 anni di storia vera in cui c'è dentro l'Italia insieme a Binda, Girardengo e poi Coppi e Bartali e poi Merckx e Gimondi fino ai giorni nostri. L'altro, scritto da Andrea e Mario Parodi, si chiama Boom ed è un libro che ricostruisce anche in questo caso, unendo il calcio, adesso il calcio non il ciclismo, il calcio e l'attualità di allora, quella di 50 anni fa. Tant'è vero che il sottotitolo dice Le imprese di Angelillo e Altafini e il miracolo economico italiano. Angelillo e Altafini vuol dire il 58 e 59, mezzo secolo fa. In cui c'è dentro, da Modugno a Giovanni XXIII, ad Angelillo e Altafini per l'appunto. Sono due letture interessanti che aiutano a ripassare i fondamentali della storia patria e non solo quella pallonara. Se è rapido c'è tempo per Franco da provincia Mantova. Buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Mi sembra di rivivere con la situazione di Moratti in questi ultimi anni il Berlusconi prima maniera, grandi investimenti primi anni, difficoltà economiche attuali, se non erro ha appena ripianato un buco nei finanze del Milan di 62-63 milioni di euro. Cioè sono abituato a vedere le milanesi nei miei 58 anni di vita a grandi exploit per 2-3 anni e scomparse repentine, escluso la lunga parentesi berlusconiana, ma d'altronde dobbiamo porre da un punto di vista economico su un livello ben diverso il Berlusconi di allora dal Moratti di adesso. Per cui da tifoso juventino, glielo confesso, non mi deprimo affatto da questi boom, diciamo, da un punto di vista della campagna acquisti di questi anni dell'Inter, perché secondo me sono dei flash, dureranno qualche anno, naturalmente in territorio nazionale, poi chiaramente all'estero ci si scontra con i giganti finanziariamente ben più grossi, tipo Manchester, tipo Chelsea, tipo Barcellona, e lì allora la grande Inter chiaramente si affloscia, perché ovviamente per vincere oggi secondo me è solo o quasi esclusivamente un discorso legato al money. Se le dico che il suo intervento non è stato memorabile e soprattutto non è stato breve come ci si era augurato, spero non se ne abbia male. Era talmente felice l'ultimo intervento che è partito da questa teoria strampalata sua e dal suo presupposto, dimenticando quello con cui abbiamo aperto la trasmissione oggi, e cioè che Moratti, che secondo questo signore di Manto ha smesso di investire ormai come nel frattempo ha fatto Berlusconi, ha finito ieri di comprare Milito e Thiago Motta, oltre a una giovane promessa ma che già costa una pacata di milioni di euro olandese, eccetera. Cioè, se questo è il ridimensionamento, alla faccia del bicarbonato. Del Piero si è infortunato in allenamento stamattina e si vedrà nelle prossime ore se potrà riprendere prima del Siena, ma la sua presenza è altamente improbabile. Leggo sull'agenzia il ripasso di storia. Nicola Filippone. Sembra ieri. 21 maggio 1967. Con uno 0-0 in casa dell'Atalanta, alla penultima di campionato, il neopromosso Mantova, la cui porta è difesa da un emergente Dino Zoff, ottiene il 22esimo pareggio stagionale. Si tratta tuttora del record assoluto della Serie A. I 22 pareggi, cui si sommano 6 vittorie e altrettante sconfitte, consentono ai Lombardi di centrare una salvezza tranquilla. In seguito, la squadra che più si è avvicinata al primato del Mantova è stata l'Udinese, che nell'82-83, con 20 pareggi, riuscì a strappare un ottimo sesto posto. Ganti ai naviganti padovani, nella fattispecie o dei dintorni di Padova. Domani a Padova, domani venerdì 22 maggio, organizzata dal Comune e dalla Società Calcio Padova, ci sarà una sorta di Rocco Day, delle celebrazioni sparse in quest'anno che coincide col trentennale della scomparsa di Paron Nereo Rocco. Ve lo dico perché la parte più lo dico ai naviganti padovani, ripeto, perché la parte più suggestiva consisterà nella riapertura temporanea dello storico stadio a Piani, proprio in segno di omaggio e di memoria rocchiana. Verrà riaperto da Piani per un'esibizione di bambini, di giovani calciatori del Padova. Tutto questo avverrà alle ore 16 e queste due squadre che si affronteranno in questa amichevole infantile in memoria del Paron saranno accompagnate in campo, una da Gastone Zanon, capitano storico del Padova classe 1924, e un'altra da Kurt Amring, vecchia gloria nazionale e internazionale e grande cannoniere di Padova, Fiorentina, Milan. Classe a sua volta 1934. Mi pare una cerimonia di grande suggestione e una magnifica iniziativa di Padova, inteso come città e come società, per ricordare il suo Paron a 50 anni ormai dall'epopea padovana creata da Rocco. Gli ultimi ascoltatori di oggi. Carlo Pisa, buongiorno. Buongiorno. lei e chi ci ascolta. Sì. Io ho sentito parlare, a proposito della sostituzione di Ranieri, di schizofrenia e di buffonata. Certo che sarebbe così, sarebbe schizofrenico da buffone cambiare un allenatore a due giornate alla fine, a meno che lo spogliatoio non sia diviso. Cioè, io la vedo così, secondo me lo spogliatoio era poco diviso qualche tempo fa, uno o due persone che magari remavano contro, come si dice, anche se è una frase molto brutta, e quindi se si sostituiscono si può andare avanti. Se la situazione è arrivata a metà e metà o giù di lì, è chiaro che a questo punto qui, se molti giocatori non si trovano in Ranieri e tutti invece, questo è il punto, si ritrovano in Ciro Ferrara, io che non ho una simpatia estrema per i dirigenti, che credo che si debbano sempre fare, sono un po' giovani, ma in questo caso penso che abbiano fatto bene, grazie. Lei come avrebbe fatto se tutti si riconoscono in Ferrara e quindi possono garantire un apporto superiore in queste ultime due giornate? Io non la vedo una cosa scandalosa. No, per carità, io personalmente non ho mai parlato né di scandali né di buffonate. Prendere troppo le distanze, perché sinceramente non ne sono così lontano, però sono termini che non ho usato in rapporto alla storia della Juventus, cioè in assoluto rispetto agli avvenimenti di adesso. Se la rapportiamo alla storia della Juventus, secondo me sono sia una buffonata che una cosa priva di senso e di ogni logica, perché prima di arrivare lì una società forte, magari giovane ma forte, richiama alle sue responsabilità i giocatori, se per caso c'è qualche problema ambientale, come indubbiamente c'era. Silvano Padova, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Io niente, volevo solo entrare nel merito di questi bambini viziati che prendono una valanga di soldi e firmano i contratti, ma perché non li rispettano? Cioè non riesco a capire il perché di tutto ciò. Ma intanto non sono bambini, sono adulti, mi pare, no? Ma sono dei bambinelli viziati, me lo consenta. Bambinelli viziati. E seconda cosa, visto e considerato che i soloni del calcio vogliono sta benedetta Moviola in campo, io vorrei sì la Moviola in campo per gli arbitri, e potrebbe anche starmi bene, ma la vorrei anche per tutti, sempre per i bambini viziati, fanno tutte quelle sceneggiate lì, e vorrei anche per loro. Che pensa lei? Penso che insomma, un pizzico di appunto demagogia non guasta mai, oggi non c'era ancora stata, e quindi l'ho già detto ieri, i contratti, questi giocatori, i contratti lunghi li firmano nell'interesse loro, ma soprattutto nell'interesse delle società, quindi non sono soltanto i bambini viziati responsabili, che poi ripeto, tanto bambini non li trovo, se non altro per come riescono a farsi gli affari, mi pare. Molto rapido, Gabriele Bologna, buongiorno. Pronto? Più rapido, no, dica Gabriele, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno, complimenti, chiedevo un suo parere tecnico sulla squadra del Bologna Calcio, grazie. Grazie a lei Gabriele, domani, perché siamo alle 14.55 spaccate ed è un periodo in cui non possiamo permetterci sforamenti per ragioni pubblicitarie, normative e di regolamenti interni, sicché domani ci sarà spazio, no domani non so se c'è spazio per il Bologna, perché c'è con alla primissima occasione. Grazie a tutti, grazie in particolare a Fabio Cantadoni in regia, a Flavio Suari in redazione, buon pomeriggio.